Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Stiamo per dare inizio all'ultimo volume della settimana, dato che sono 5 e ogni settimana fra le 19 e le 20 se li ascoltate sulle frequenze di Rock FM in altro orario, in altro giorno, se vi avvalete invece del podcasting, di cui trovate i dettagli su radiorockfm.com oppure su myspace.com/eclettica. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni da 14 stagioni su queste frequenze con Eclettica. Una comitiva di solitari e litigissimi eroi stavano fumando lungo la pubblica via. La notte era scura e densa in mezzo loro, ognuno al di sotto del proprio fardello. «Mi piacerebbe raccontare la mia storia», disse uno di loro così giovane e audace. «Mi piacerebbe raccontare la mia storia prima di diventare denaro». Nessuno poteva sentirlo, la notte così scura e densa e fresca. Penso che questi eroi vivano sempre là dove tu ed io soli siamo stati. Tira fuori la tua sigaretta, amore. Sei stata sola troppo a lungo. Ed alcuni di noi sono troppo affamati ora per ascoltare cosa hai fatto di così sbagliato. Canto questo per le cicale. Canto questo per l'esercito. Canto questo per i tuoi bambini. Per tutti coloro che non hanno bisogno di me. Mi piacerebbe raccontare la mia storia, disse uno di loro così audace. Oh sì, mi piacerebbe raccontare la mia storia, perché sai che tra poco sarò solo denaro. Questa era A Bunch of Lonesome Heroes di Leonard Cohen. Ha scritto Marina da Genova, che parlandomi di una canzone, ve lo dico se siete curiosi, si tratta di Shake Your Shape dei Joycat, mi ha detto: l'avevo sentita ad Eclettica ed era un pezzo che mi ha letteralmente bloccato su una sedia in cucina, perché mi ha emozionato così tanto che non volevo perdere neanche una nota. La mia vita è solo lavoro, due, uno al mattino e uno al pomeriggio, e casa. Non ho un amore e vorrei averlo. Il mio amore è la musica, perché mi scalda il cuore e va a riempire quel vuoto che alla sera tante volte è difficile da accettare. Secondo me, attraverso la musica si tiene lontano anche la depressione. Ogni tanto ci cado, comunque anch'io. Ma credimi, io credo veramente che su certi soggetti la musicoterapia funzioni. Baci. E saluta per me tutte le donne sole che alla sera ti seguono, perché per noi donne questi tempi sono veramente duri e dobbiamo essere sempre pronte alla battaglia per sopravvivere. Poi abbiamo avuto uno scambio di messaggi in cui le ho chiesto la possibilità di leggere un estratto del suo mail. Ovviamente mi ha dato il via libera in quanto avete appena sentito queste parole, però aggiungendo anche dell'altro. Sai, questo fine settimana ho avuto delle crisi di solitudine, specialmente domenica in maniera particolare, ma io mi attacco alla radio o ai miei CD e poi alla fine sono andata a dormire con sonnifero perché ero troppo sotto i tacchi. Comunque, sappi che puoi dire tutto quello che vuoi di quello che ti racconto, anche perché so che siamo in tante nella mia situazione, e chissà che il fatto di sentire qualcuno che ha la tua stessa situazione non ti faccia sentire un po' meno sfigata. Queste erano le parole di Marina, da Genova, e dal mio punto di vista non può altro che far piacere di poter rappresentare una sorta di musicoterapia. D'altronde non è la prima volta che salta fuori questa indicazione di un'eclettica terapeutica. Già negli anni scorsi lo stesso tema, in contesti diversi però, era stato in qualche modo toccato. Per quanto riguarda eclettica, salutando Marina e tutte le altre che lei ha voluto accomunare in questo saluto. Ritornando ad Eclettica, vi ricordo che vi siete ascoltati in apertura Misophone con The Sea Has Spoken, poi Say Hi con Northwestern Girls ed ora un bel esordio per Sub Pop. Ho sottolineato bel perché non è che succeda così tanto da qualche anno a questa parte in Sub Pop che si scopra un grande gruppo e poi che arrivi da Seattle, e questa non è sicuramente una colpa di Sub Pop. Ci sono stati periodi storici in cui da Seattle arrivavano grandi gruppi. Ora da Seattle arrivano i Grand Archives. Grand Archives che ci ascoltiamo con Torn Blue Foam Coach. Sono le 4 della mattina, la fine di dicembre. Sto scrivendoti ora, giusto per vedere se stai meglio. New York è fredda, ma a me piace dove vivo. C'è musica in via Clinton tutta la notte. Ho saputo che stai costruendo la tua piccola casa nel deserto profondo. Stai vivendo per nulla ora. Spero tu stia tenendo qualche tipo di memoria. Sì, e Jane venne con una ciocca dei tuoi capelli. Disse che gliel'avevi data tu, quella notte che pianificasti di andare via. Sei mai andato lontano? Ah, l'ultima volta che ti vedemmo sembravi molto più vecchio. Il tuo celebre impermeabile blu era strappato alla spalla. Andasti alla stazione ad aspettare ogni treno e venisti a casa senza Lily Marlene. E offristi alla mia donna una parte della tua vita. E quando lei tornò, non era la moglie di nessuno. Bene, io ti vedo là con una rosa tra i denti, un altro magro ladro zingaro.

forse quel quadro è stato fatto sparire perché rappresentava qualcosa di importante. Qualcosa di talmente importante che tu non te ne rendi conto. Importante. Importante. Il quadro. Should I die tomorrow while your heart feels sorrow from the fall? Ba ba ba ba ba ba ba ba.